In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Il Falco e il Gabbiano presenta... Chuck si vola di Enrico Ruggeri. Febbre a 90. Lo abbiamo detto più volte, tifare per una squadra è più di un semplice passatempo, per molti è una fede, a volte addirittura più profonda di quella religiosa. Tifare per una squadra vuol dire avere gioie, delusioni, ovviamente più delusioni che gioie quasi sempre, anche perché le squadre sono tante e alla fine i campionati vengono vinti da una squadra sola. Ma poi comunque, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda la parte più umana del pianeta, è più bello e più appassionante stare dalla parte degli sfavoriti, degli underdog. Le vittorie, quando sono rare, sono meravigliose, perché hanno in sé la poesia dell'attesa. È l'ultima partita in casa la stagione passata? Allora? Uno schifo totale. No, ma dai. Hanno fatto schifo al cazzo l'anno scorso e hanno fatto schifo al cazzo anche l'anno prima. Ora sono primi, ma tanto fanno schifo al cazzo anche quest'anno e quest'altro anno e anche l'anno dopo. No, non sto scherzando. Non so perché ci vieni, Frank, davvero non lo so. Beh, uno spera sempre, giusto? Tu che ne pensi, giovanotto? Fanno schifo, come dice Frank. È la sua prima partita. Beh, spero che sappia cosa sta andando in conto. Il tifoso è strano, da un lato non perde mai la fiducia, magari non arrivano i risultati e lui va allo stadio sfidando il caldo, il freddo, la pioggia, il vento, la neve, e magari tornando a casa deluso per l'ennesimo brutto risultato, magari per un'altra stagione senza trionfi, a zero titoli, come diceva qualcuno, e allora dice: io non spenderò più soldi per biglietti, per abbonamenti, ho altre cose da fare, posso passare meglio il mio tempo libero. E poi magari alla fine la passione ha di nuovo la meglio e si torna allo stadio, magari trascurando mogli, mariti, figli, amici, e insomma i tifosi ragionano in un modo molto particolare. Bene, il protagonista della nostra storia di oggi fa parte di questo gruppo di persone. Per Paul Ashworth il pensiero fisso, l'amore della vita, è l'Arsenal. Non vedi l'ora, vero? Per cosa? Per la partita. Sì. Già si vede. È che non sono un patito del calcio. No. Un giorno scopriremo cosa che ti piace sul serio. Da bambino Paul non si scaldava molto per il calcio e poi ha questo padre separato che lo va a trovare e quindi deve inventarsi, come tutti i padri separati, qualcosa da fare col figlio. Allora prova a portarlo allo stadio a vedere l'Arsenal e qui nasce questo rapporto. Come tutti, forse il vero amore vuol restare grande, no? Volevo dire un'altra cosa, ma non mi cito. E quindi nasce questo rapporto che, come i grandi amori, nasce lentamente, si insinua nelle sue vene. E il padre che torna a Londra solo quando il lavoro glielo permette, e insomma andare a Highbury, allora era Highbury, a vedere l'Arsenal, diventa l'unico momento di comunione tra padre e figlio. Lì i due riescono ad avere un rapporto degno di questo nome. A un certo punto il padre vorrebbe cambiare, propone qualcosa di diverso al ragazzino, vuole portarlo anche da qualche altra parte, non sempre allo stadio. Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio? Tipo cosa? Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti. Non stai dicendo al posto della partita, vero? Beh, non potremmo fare tutte e due. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile. Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Se ci fate caso, nella vita un uomo può cambiare qualsiasi cosa, può cambiare fede politica, religione, moglie, addirittura sessualità, può cambiare tutto tranne la squadra di calcio. È l'unica cosa che rimane incisa nel tuo cuore da quando hai l'età della ragione fino alla fine. Tra l'altro Paul ha questa, come dire, patologia, perché comincia a convincersi che i suoi successi e i suoi fallimenti siano direttamente legati ai risultati dell'Arsenal, cioè quando l'Arsenal vince, insomma, lui si sente stimolato a far bene. Peraltro vive quindi un'esistenza avara di soddisfazioni, perché l'Arsenal in quegli anni vince poco. Tra gli anni 70 e 80, quando Paul è adolescente, l'Arsenal vince veramente raramente qualcosa, una coppa, magari uno scontro diretto importante contro una grande nel campionato inglese. Conosco molto bene il tema, cioè tifare per una squadra che ti regala due o tre soddisfazioncine in un anno e non porta a casa nulla è quanto di più terribilmente romantico possa esistere. E lui organizza la sua vita in base al calendario calcistico. Quando a settembre vengono comunicate le date, gli orari delle partite, lui sa già che nessuno potrà occupare quelle giornate. Quando l'Arsenal gioca in casa, lui deve essere allo stadio, come se la sua presenza valesse tanto quanto quella dell'allenatore o della stella della squadra. Mi viene in mente, l'anno scorso suonavo a Napoli e quel giorno il Napoli giocava in casa e un mio fan mi scrisse su Facebook: non posso venire al tuo concerto, perdonami, ma prima il dovere e poi il piacere. Ecco, il concetto è un po' quello. Lui si sente indispensabile, è un modo infantile, passionale di vivere il calcio. Peraltro nel frattempo, nella sua vita, lui deve trovarsi un lavoro, inizia a fare l'insegnante in una scuola media di Londra, perché è riuscito anche in qualche modo a laurearsi. Certo, non è il lavoro che aveva sognato da bambino, ma gli permette di essere libero il fine settimana, e questo è fondamentale, perché bisogna seguire le partite dell'Arsenal. Just 'cause I ain't never had no nothing worth having, never ever never ever. You ain't got no call not to think I wouldn't fall into thinking I ain't too clever. And it ain't not having one thing, no, not another either, neither is it anything, whatever. And it's not knowing that there ain't nothing showing in the answer to the name of Trevor. However, just 'cause I ain't never said no, nothing worth saying, never, ever, never, never, ever. Into what I never said till me mouth becomes me head, which ain't not all that clever. And it's not saying one thing nor not another either, neither is it anything I haven't said, whatever. Peraltro Paul Ashworth è l'idolo dei suoi studenti, perché il fatto di essere così tifoso dell'Arsenal lo avvicina ai ragazzi e anche ai genitori, perché viene visto un po' come un eterno bambino. Insomma, l'ho detto tante volte, il calcio è il modo che noi uomini abbiamo per tenere vivo il bambino che c'è dentro di noi, e quindi in qualche modo diventa un riferimento per i ragazzi. Questo aspetto naturalmente non viene visto di buon grado da alcuni colleghi, da una in particolare. Lei si chiama Sarah Hughes, soprannominata da Paul Miss La Spocchia, perché ha dei modi di fare piuttosto rigidi, vive l'insegnamento come una missione, ci mette anima e corpo nel suo lavoro. Si accorge presto che genitori e studenti in quella scuola hanno più stima per una persona come Paul, che lei vede come un ragazzino immaturo, e non riesce a spiegarsi come mai lui sia più apprezzato di lei dai genitori, lei che non riesce a catturare interesse e stima. Lei sembra essere il beniamino della scuola, tutta quella fila al suo tavolo. Domani pomeriggio ci collegheremo con l'ippodromo di Copsen per seguire la cronaca diretta alla corsa a partire dalle ore 15. E ora una notizia di calcio. Di cosa ha parlato con la madre di Parker tutto quel tempo? Merda, vaffanculo. Come, scusi? Paul Davis. Chi è Paul Davis? Dell'Arsenal. Stavamo parlando di lui? Scusi tanto, lo stavo ascoltando. Dopo 20 anni, il muro dei 9,95 stabilito da Heinz a Città del Messico. Dell'Arsenal? Sì, l'ha già detto. No, con la madre di Robert Parker. Stavo parlando dell'Arsenal. Buona notizia anche per Limpar Christie. Ho sbagliato lavoro, anzi ho sbagliato vita. Ho passato ore a prepararmi al colloquio con i genitori e nessuno che avesse qualcosa da dirmi. Invece ecco che arriva lei e loro fanno la fila ore per ascoltare le sue perle di saggezza sulla prossima partita contro i Wolves United. Solo Wolves senza United. Mi dispiace, capisco che le sembra ingiusto. Beh sì, è così in effetti. Forse è troppo formale con loro, forse dovrebbe essere più se stessa. Tutto quel mucchio di schede, di raccoglitori. Sono così quando sono me stessa. E come spesso accade, gli opposti si attraggono. Quante donne un po' rigide in realtà nascondono dentro un mondo molto interessante. Insomma, Paul e Sara, dopo questa chiacchierata, cominciano a frequentarsi. Lei conosce questo aspetto così infantile della personalità di Paul, segnato dall'amore per l'Arsenal. Lui e Sara, che sono due persone così diverse, cominciano in qualche modo a odorarsi, a piacersi. Paul è veramente un Peter Pan che non vuole mai diventare grande, che lavora come insegnante solo perché non ha trovato niente di meglio. Inizia così questa storia d'amore incostante, strana. Cominciano a vedersi anche fuori da scuola, naturalmente calendario dell'Arsenal permettendo, perché Paul non arretra di un centimetro e si dimostra piano piano coinvolto nella storia con Sara, ma la squadra è sempre al primo posto. Poi deve anche lottare su un pregiudizio, che è quello per il quale chi si appassiona al calcio non possa avere altri interessi nella vita, e invece non è così. Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio, disse Mourinho. Si dimentica facilmente che siamo in grado di scegliere. In teoria è possibile amare il calcio, la musica soul e la birra, per esempio, ma aborrire i palpamenti e i pizzicamenti, o, dobbiamo ammetterlo, viceversa. Uno può leggere Mariel Spark e ammirare Brian Robson. È interessante il fatto che gli uomini sembrino più aperti delle donne ai cocktail. Una mia collega femminista si rifiutò letteralmente di credere che io guardavo l'Arsenal, incredulità a quanto pare dovuta al fatto che una volta avevamo parlato di un romanzo femminista. Come potevo aver letto quel libro ed essere stato a Highbury? Dia una donna intelligente che ti piace il calcio e ti farai un'idea piuttosto deprimente della concezione che le donne hanno dell'uomo. Odiamo essere trattati con condiscendenza. Ci sono persone che mi conoscono solo come un monomaniaco e che mi chiedono lentamente e con pazienza, sillabandomi le parole, dei risultati dell'Arsenal prima di voltarsi verso qualcun altro per parlare della vita. Come se l'essere tifoso di calcio precludesse la possibilità di avere una famiglia, o un lavoro, o un'opinione sulla medicina alternativa. Ma la nostra follia rende quasi inevitabile la condiscendenza. Mi rendo conto di tutto questo. E tuttavia vorrei ancora affibbiare a mio figlio nomi quali Liam Charles George Michael Thomas. Ho quel che mi merito, suppongo. Insomma, Sara non riesce a spiegarsi come possa un uomo di più di 30 anni farsi coinvolgere così tanto da uno sport che ai suoi occhi è stupido e anche infantile, come è il calcio. La relazione prosegue e naturalmente vengono fuori i problemi, intanto legati al rapporto tra Paul e la sua squadra del cuore, ma forse proprio ai rapporti tra Paul e se stesso, alla sua incapacità di crescere. Lei vorrebbe maturità, per Paul è più facile trovare scuse e giustificazioni piuttosto che prendersi responsabilità, scarica sugli altri le sue mancanze come farebbe un ragazzino. Io sono capacissimo di impegnarmi, di non tirarmi indietro e via dicendo, e se con te non succede è per causa tua, non mia. Sono 21 anni che vado a vedere l'Arsenal. 21 anni. Paul, non so se l'hai notato, ma l'Arsenal è una squadra di calcio. E pensi che ci sia differenza? Sì, penso di sì. Beh, questo dimostra quanto hai capito. E lei cerca di capire, vorrebbe capire cosa prova lui per l'Arsenal, e allora un giorno va con lui a Highbury a seguire una partita dalle tribune. 90 minuti allo stadio non bastano a capire una passione che dura da una vita, però insomma lei comincia a entrare vagamente in sintonia con Paul, col suo modo di vedere il mondo, però questo non basta a giustificare i comportamenti e anche l'ossessione che ha Paul nei confronti del calcio. In soccorso, se così si può dire, di Sara arriva un evento terribile, un evento che sconvolge il mondo del calcio inglese, è la tragedia di Highbrook dopo quella dell'Eisel del 1985. Il 15 aprile del 1989 il calcio inglese è al suo tragico spartiacque. Lei spera che questo faccia cambiare le abitudini di Paul nei confronti del calcio. Nella semifinale tra Nottingham Forest e Liverpool, allo stadio Hillsborough di Sheffield. 74 fino a questo momento le vittime accertate. Tutti tifosi del Liverpool, rimasti schiacciati nella ressa mentre altre centinaia venivano sospinti sul campo di gioco. Innumerevoli i feriti ricoverati negli ospedali della contea. L'allenatore del Liverpool, Kenny Dalglish, e il suo collega del Nottingham, Brian Clough, sono addolorati. Finora così stupido farebbe pensare che quanto accaduto sia il risultato di scontri tra una partita di calcio. Dovevano saperlo che prima o poi sarebbe successo. Un pomeriggio nel settore nord e sei già un esperto. Insomma, questa è una storia d'amore che si trova in una condizione di stallo. Lui che vuole continuare a fare la sua vita di sempre, andare allo stadio, passare i pomeriggi al pub con gli amici, non avere preoccupazioni, ma mantenere anche il rapporto con la donna che a suo modo ama. Peraltro la sua visione della vita lo porta, per dire, a rifiutare il posto da vicepreside nella scuola in cui lavora, perché non ha ambizioni, perché è un pigro e quindi per certi versi, almeno secondo la visuale di lei, un immaturo, si crede ancora un ragazzino, lui non vuole prendersi le sue responsabilità, gli basta sbarcare il lunario e andare a vedere l'Arsenal e tenersi questa storia d'amore. E questa routine verrà spezzata da una notizia improvvisa: Sara è incinta. La reazione di Paul conferma che lui non è proprio pronto per diventare un adulto. No, è arrivato il momento giusto per me. Mi stavo un po' rompendo del pub e del pallone, di passare un sacco di tempo a giocare a subbute. È ora di andare avanti. Avere un bambino è una splendida idea. Non è stata proprio un'idea. Beh, no, ma è lo stesso, è perfetto. Insomma, non è solo per il fatto del bambino, capisci? Sei anche tu, sì. Siamo bene insieme. Pensavo di essere Miss La Spocchia. No, mi sbagliavo, ci ho riflettuto. Sei una George Graham. L'allenatore dell'Arsenal. E questo è positivo, giusto? È fantastico, tu sei attenta e ordinata e metodica, ecco, perciò tra noi funziona. Io ho bisogno di una così e tu di uno come me. Il tuo opposto. Facciamo una bella squadra, una squadra di club. Paul, stai dicendo un mucchio di sciocchezze. No, non sono sciocchezze, è la verità. È tutto regolare. Moglie e figlio, mi va benissimo. Ho detto forse che dobbiamo sposarci. Beh, vogliamo fare tutto come si deve, no? Chuck si vola. Febbre a 90. Stiamo raccontando Paul Ashworth, il protagonista della nostra storia, un uomo che non vuole crescere e che si abbarbica alla sua adolescenza attraverso il suo sviscerato amore per l'Arsenal, un amore che gli impedisce in qualche modo anche di vivere una storia affettiva con la sua fidanzata storica, ormai direi, che si chiama Sara. Lei in questo momento è incinta, quindi lo inchioda un po' a delle responsabilità, ma quell'anno sta succedendo qualcosa di ancora più clamoroso per lui, perché siamo nel campionato 1988-89 e l'Arsenal sembra avere la possibilità di vincere il titolo dopo 18 anni di attesa. Neanche la tragedia di Hillsborough può essere un ostacolo per Paul e tutti i tifosi dell'Arsenal. Qui non bisogna perdere neanche un secondo di questo finale di campionato, perché da una vittoria o una sconfitta dell'Arsenal può dipendere molto della sua esistenza. Per la prima volta, ma certo non per l'ultima, cominciai a credere che gli umori e le vicende dell'Arsenal riflettessero in qualche modo i miei. Non era perché stavamo giocando in maniera brillante e perché stavamo vincendo, anche se i miei recenti successi scolastici erano la prova migliore che fossi un aspirante al titolo di campione della vita. L'Arsenal cominciò a dispensare passaggi di una precisione millimetrica a destra e a manca, e i nostri difensori risalirono fino all'area di rigore avversaria, superando il portiere con pallonetti di una precisione e di una delicatezza degna di Cruyff. E il mio sospetto che il mondo fosse impazzito trovò conferma. L'Arsenal si credeva all'Olanda, e se avessi guardato con attenzione sarei sicuramente riuscito a vedere uno stormo di asini aleggiare placido sopra il Clock End. Un paio di mesi più tardi le prendemmo al derby per 5-0 e ritornammo immediatamente alle nostre vecchie, ostinate e rassicuranti maniere. La brevità dell'esperimento sembrò confermare l'idea che tutto fosse stato una metafora particolarmente ingegnosa, inventata per mio uso e consumo e abbandonata nel momento in cui l'avevo capita. L'abbiamo detto, lui fin da quando era ragazzino in qualche modo vive questo parallelismo tra i successi e gli insuccessi della sua vita e quelli, e peraltro rarissimi in quegli anni, dell'Arsenal. Questa situazione va avanti fino a quando lui non viene a sapere che sta per diventare padre. La notizia ovviamente lo sconvolge, sembra quasi fargli cambiare il modo di vedere la vita in generale e quindi anche il calcio. Sara però capisce che la sua reazione è dettata più dal panico che non dall'entusiasmo programmatico che dovrebbe dare la paternità. E sarà meglio che io accetti quel posto. Quale posto? Ted mi ha chiesto se volevo il posto di vicepreside e gli ho detto di no, ma a questo punto è la cosa migliore. Serviranno più soldi, ci vorrà una casa o almeno un posto un po' più grande. Paul! Ted sarà contento. Liam, splendido. Paul, scusa. Potremmo abitare vicino allo stadio. Costa meno. Nessuno vuole uno stadio davanti a casa, a parte me. Figurati, io pagherei un extra. Ma questo all'agenzia non lo diciamo, eh? Mutuo, moglie, figlio. Forte. Paul, non c'è niente di reale in tutto questo. Ti comporti come un bambino. Gesù, sono stata messa incinta da un dodicenne. E Paul prova a fare un passo verso questa maturità, verso l'età adulta dalla quale lui cerca di sfuggire. Va al colloquio per il posto da vicepreside, è convinto che potrà aiutarlo a costruirsi una nuova vita, ma lui è il primo che non ci crede, sa di non avere le capacità per diventare vicepreside, pensa che magari ottenere questo ruolo possa aumentare la possibilità che la storia continui, che lei cominci a considerarlo un uomo vero. Il colloquio si rivela un nulla di fatto, lei va in suo soccorso credendolo deluso, affranto, ma non ha fatto i conti con l'immaturità di Paul, anche stavolta cade nelle sue vecchie manie, lui resta sensibile solo a quello che accade attorno all'Arsenal e non a quello che sta succedendo alla sua vita. Scusa Paul, di che cosa stiamo parlando? Beh, io lo so di che sto parlando, tu di che stai parlando? Del posto. Del posto? E io sarei incazzato nero per uno stupidissimo cesso di colloquio, abbiamo perso in casa col derby oggi, perso! Dio, Paul, quando è che deciderai di svegliarti? Quando è che mi sveglio? Sono anche troppo sveglio. E vorrei non esserlo. Vorrei dormire per le prossime 10 stagioni. Stagioni? Sono stufa di sentir parlare di queste stramaledette stagioni. Nella vita reale si chiamano anni, Paul, lo sai? Da gennaio a dicembre. Non per tutti è così. Sì, è per tutti così, perfino per te. Sai che significa per me? Sai quanto avevo aspettato questo momento? Sì, sì, credo di saperlo. 18 anni. Sì, 18 anni, 18 fottutissimi anni.

E la possibilità di diventare padre forse lo riporta sulla terra, però è anche vero che, se seguite il mio ragionamento, lui aspettava uno scudetto da 18 anni, e in 18 anni, se vuoi, puoi fare 12, 13, 15 figli, quindi è più difficile uno scudetto che una paternità. Chuck si vola. Febbre a 90. A volte il destino disegna le sue trame in maniera diabolica. Insomma, ci stiamo avvicinando al 26 maggio 1989, Anfield, cioè casa del Liverpool. L'Arsenal deve andarsela a giocare proprio dai suoi rivali storici che sono in testa, e per vincere il campionato, dato che c'è ancora la differenza reti, deve vincere con due gol di scarto. Solo in quel caso l'Arsenal può salire sul trono di Inghilterra e Paul esorcizzare i suoi fantasmi. Tu non capisci, quindi? Quindi cosa? Quindi vaffanculo, va a casa, lasciami in pace? Quello che ti pare. Sai una cosa, Paul? Non ho alcun sogno che duri da 18 anni, perché ero una bambina 18 anni fa. E se volessi ancora le stesse cose, penserei che c'è qualcosa che non va, perché io non voglio sposare David Cassidy, non voglio avere le tette grosse e non voglio far bene agli esami d'ammissione. Ho smesso di preoccuparmi di queste cose e forse dovresti provarci anche tu. E così si è persa una parte di te, perché tutti dovrebbero continuare a volere una cosa che hanno sempre voluto. È una giornata storica quel 26 maggio. Per scaramanzia, forse per paura, Paul decide di non andare a Liverpool a vedere la partita, la guarderà alla TV con il suo amico storico. Sara non gli fa compagnia, va a una festa, sa che per lui sarà una serata terribile, dentro o fuori, non c'è una via di mezzo in quei casi, o l'euforia o la disperazione. E poi lei, che è ormai è un po' contagiata dalla passione per l'Arsenal, non ce la fa a stare lontana da lui, decide di raggiungerlo. Siamo già a 30 secondi oltre il 90esimo, mentre Willian sta impostando la manovra per l'Arsenal. Ti dispiacerebbe, per favore, per favore, per favore, per favore, andare all'istante a fare il culo? Capiti nei peggiori 60 secondi della mia vita e non ho nessuna voglia di vederti! Tutto tu guarda, concentrato nel... Ma si può essere così testa di cazzo? Giustificherei sì e no un alieno appena sbarcato da Marte, anche in quel caso. Dove cavolo vai? Guarda che finisce che ti perdi il meglio! E il destino è ancora più diabolico. Siamo a pochi minuti dalla fine, l'Arsenal sta vincendo 1-0. È una vittoria che sarebbe inutile. Senza un secondo gol il campionato verrebbe vinto dal Liverpool. Bene, in quel momento terribile suona il citofono. Paul manda Sara a quel paese, poi si pente, corre giù per le scale ma non la trova, torna in casa, entra appena in tempo per vivere il momento che aspettava da 18 interminabili anni. Adams cerca di fermare Barnes, che continua nella sua azione, fermato ora da Richardson, che dà al portiere. Si porta in avanti per quella che sarà probabilmente l'ultima azione offensiva. Buono il lancio di Dixon, che va a trovare Smith, questi da Thomas, rimpallo favorevole per Thomas, entra in area. L'Arsenal ottiene una epocale, terribile, sospirata e drammatica vittoria. Va a Anfield Road, batte 2-0 il Liverpool e festeggia lo scudetto in casa dei rivali. Per il nostro protagonista quella non è una semplice vittoria sportiva, è uno spartiacque della vita, è la rottura dell'incantesimo, è il momento di svolta della sua vita. Lui si sta scrollando di dosso l'infanzia e sta superando, esorcizzando i suoi fantasmi per iniziare a prendere in mano la sua esistenza una volta per tutte. Quando ripenso al 26 maggio 1989, non so spiegarmi esattamente cosa sia successo a entrambi. Beh, a tutti e tre, se contiamo la squadra. Ma dai. Però so una cosa. Non è possibile. Che il mio rapporto con l'Arsenal è cambiato quella sera. Ma perché non mi devi credere? È come se fossi saltato sulle spalle della squadra e questa mi avesse trasportato nella luce che si irradiava di colpo su tutti noi. In quel momento, in qualche modo, mi sono sentito staccato dalla squadra. Oh sì, ci frequentiamo ancora e io continuo ad amarla e insieme a odiarla, ma ho la mia vita ora. I miei successi e i miei fallimenti non sono necessariamente legati ai suoi. Va bene come vuoi. E questa è una buona cosa, almeno credo. Certo, la passione per la tua squadra non muore, te la porterai dietro fino in fondo, ma Paul in qualche modo è riuscito a superare quel fantasma, a non dipendere più dai risultati del suo Arsenal. Ha iniziato con questa vittoria a prendere in mano la sua vita e a vivere l'amore non solo per una squadra di calcio, ma anche per una donna, una persona in carne e ossa, anzi per una famiglia che si sta per formare. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che io punti il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, cercateci ovunque perché sapete che se volete mi trovate. Ciao, a domani. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.